nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, ben ritrovati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, il programma dedicato ai temi del lavoro, alle donne che lavorano e a quelle che credono come noi che multitasking equivale a grande fregatura. Multitasking significa che magari la domenica una deve essere abilissima conduttrice di automobile per portare i figli da una parte all'altra a trovare gli amici, ma anche cuoca sopraffina, perché il pranzo della domenica resiste nella tradizione, e perché no anche compagna di giochi se i più piccoli vogliono giocare, e poi la sera anche brillante conversatrice se si hanno amici a cena. Tutto insieme e tutto possibilmente alla perfezione. Ma no, abbasso il multitasking e prendiamoci così, come siamo. Nessuna è perfetta. Noi ci proviamo a dire che basta multitasking, prendiamoci per come siamo, facciamo già moltissimo. Ma se non ci aiuta la comunicazione globale, cioè se veniamo continuamente raffigurate come 30 anni fa, se non c'è una percezione tra quello che siamo diventate noi donne italiane e come ci raccontano, tutti gli sforzi possibili lasceranno il tempo che trovano. E allora, al grido di non siamo così e che ci dipingono così, oggi abbiamo pensato di parlare di come siamo comunicate. Ma come ci comunicano? Secondo una ricerca condotta dall'Art Director Club italiano, dalla Nielsen Italia e dall'Università Alma Mater, per ogni 100 campagne pubblicitarie che hanno donne protagoniste o coprotagoniste, il 13% di queste campagne rappresentano le donne come sessualmente disponibili. Percentuale di uomini che vengono rappresentati come sessualmente disponibili? L'1%. Allora, insomma, d'accordo, il Parlamento nel 2008 addirittura, ere geologiche fa, approvò con 500 voti a favore la proposta di abolire la pubblicità sessista e degradante, ma le cose non sono cambiate da allora. Nell'81% degli spot le donne sono o modelle o, come si dice in genere, grechine, cioè elemento decorativo che non dice niente, o esplicitamente disponibili, o manichini, o addirittura preorgasmiche. Allora, la comunicazione è tutto. La pubblicità, si diceva negli anni 60 e anche prima, è l'anima del commercio, ma se noi non cambiamo la comunicazione, come veniamo comunicate noi e abbiamo voglia di far dibattiti, di raccontare qui a Nessuna Perfetta come possiamo essere soddisfatte di quello che stiamo facendo, abbiamo già fatto, il bilancio sarà sempre negativo, anche perché negli spot la differenza è palpabile. Lui, l'uomo, rientra da casa su un'automobile lucida, bella, gigantesca e ovviamente rientra dall'ufficio. Lei dov'è? A casa. Oh, pensate questa. In Francia, qualche settimana fa, avevano deciso di lanciare una campagna per cambiare totalmente l'immagine ormai archeologica della donna francese. Bene, indovinate lo spot, no? Come comunicava questo cambiamento clamoroso della donna in Francia che lavora, eccetera. La casa vuota, in uno stato di abbandono, camera dei bambini disordinata, ferro da stiro lasciato acceso sul punto di incendiare l'appartamento, cucina sporca. Vabbè, sono convinta che dietro quello spot ci sia un pubblicitario molto arrabbiato con la sua partner, ma a parte questo è successo il putiferio in Francia, perché la ministra per le pari opportunità in un tweet ha detto: non mi pare proprio un buon modo di sottolineare l'uguaglianza di genere nel lavoro. Io vorrei parlarne proprio con l'agente provocatore di questa domenica, un giornalista famosissimo che ha dedicato il suo ultimo libro alle donne. Bruno Vespa con Buongiorno Donne d'Italia. Buona domenica a te. Anche a te. Ma cosa è successo perché di colpo le donne meritassero un libro di Bruno Vespa? Mi prendi in giro fin dalle prime battute, ma io alle donne ho già dedicato, però sai, sia in Amore e Poteri sia in Donne di Cuori le donne erano sempre accoppiate agli uomini, stavolta invece sono anche indipendenti dagli uomini, anche se di tutte, da Cleopatra alla Boschi ho parlato, oltre ad inserire maliziosamente la data di nascita. Che nel caso della Boschi non è una cosa così drammatica, e nemmeno nel caso di Cleopatra, devo dire. Sai, Cleopatra è morta prima di 30 anni, quindi poveretta, insomma, non... ho parlato degli amori, cosa che mi è risultata particolarmente difficile con la Boschi, perché appunto lei continua, anche a me ha detto che non ha fidanzati, insomma, tra l'altro non ha nemmeno il tempo di fare quelle normali frequentazioni che a una ragazza, a una giovane donna, insomma, consentono di conoscere. Lei le persone che conosce, che le conosce soltanto negli incontri ufficiali, negli incontri, quindi non lo so, se mai avrà un fidanzato, e prima o poi ce l'avrà, è difficile che sia insomma qualcuno conosciuto fuori dell'ambito ufficiale. Noi glielo auguriamo. Però senti Bruno, ma nel tuo viaggio appunto attraverso donne di grande personalità, dall'inizio alla fine del libro, non ti è venuto da pensare che tutto sommato oggi in Italia noi siamo ancora legati allo stereotipo della donna che comunque deve essere accompagnata a un uomo, deve avere un uomo alle spalle? Tu dici giustamente, se un uomo senza una donna difficilmente arriva a certi incarichi, le donne possono fare anche da sole. Ma è una cosa che pensi tu. Invece normalmente c'è sempre questa tendenza a comunicare una donna nello stile degli anni 50, lasciami dire, ma nemmeno negli anni 60. Allora, il libro parla non solo ovviamente delle donne politiche, ma anche delle grandi giornaliste, delle grandi stiliste, delle grandi scienziate. Proprio le scienziate, sia Rita Levi Montalcini sia Fabiola Gianotti, quindi due generazioni diverse, hanno una vita assolutamente da single. Hanno sempre avuto una vita da single, quindi voglio dire, hanno fatto la carriera che hanno fatto, quindi si può prescindere tranquillamente dagli uomini. Insomma, le donne stanno acquisendo sempre più potere, come giusto che sia, e tra poco ne avranno più degli uomini, perché è un'ondata crescente a ritmi vertiginosi. Basti dire che le magistrate, sì, pur essendo entrate in magistratura soltanto 50 anni fa, sono già più numerose degli uomini, insomma. Tu ne hai avuta una in casa, ecco, quindi appunto. Sai com'è. Senti, sì. Ma nell'immaginario invece, per esempio, se ti capita di guardare tra uno stacco e l'altro di Porta a Porta la pubblicità che passa su tutte le reti, non trovi che ci sia una descrizione, una narrazione delle donne, almeno nella pubblicità italiana, che è veramente vecchio stile? Forse sì, perché la pubblicità si riferisce ai responsabili degli acquisti, e quindi a degli acquisti familiari in qualche modo, e quindi è anche fatale, anche se non completamente giusto, che la donna venga ritratta come appunto la persona che gestisce la famiglia e che sceglie anche per conto degli altri. Credo che la ragione sia questa prevalentemente, insomma, non un atto di non riconoscimento del livello assunto dalla donna nella società attuale, perché voglio dire, anche le donne che lavorano, anche le donne che fanno più carriera dei mariti, fatalmente 8 volte su 10 sono loro che stabiliscono quello che si compra. A proposito di comprare, le donne sono anche quelle che vanno in libreria molto molto più molto degli più, uomini. Sono più colte degli uomini e anche più curiose. Sono più curiose, assolutamente. Ma guarda che le donne escono come dei giganti da questo libro, perché hanno le stesse capacità degli uomini e in più non commettono gli errori degli uomini. Per esempio, dinne uno che non viene commesso da noi donne, visto che di solito tendiamo ad essere a infliggerci un sacco di colpe, no? Siamo tendenzialmente... No, devo dirti colpevolisse. Mentre tutti i grandi uomini, i grandi statisti, i grandi, almeno nell'esperienza italiana, voglio dire, tutti quanti alla fine si sono perduti per un delirio di onnipotenza, e le donne in genere stanno attente, cioè non compiono il passo fatale, quello che le perde, non, almeno così, adesso non posso dire, però insomma, studiando donne di 2000 anni ho visto che sono state, perfino Cleopatra, voglio dire, ha agito, è stata spregiudicata, donna coltissima, donna bellissima, donna, è stata molto spregiudicata, non è stata leale alla fine nei confronti di Antonio, però non ha commesso lei lì gli errori, li ha commessi Antonio, li ha commessi Cleopatra. E quindi questo è un libro che fa bene all'autostima, Donne d'Italia, da Cleopatra a Maria Elena Boschi. Vorrei una previsione da te: chi sarà la prima donna Presidente della Repubblica, se già possiamo immaginarla, magari invece uscirà da un cilindro? Tu scrivi di politica da tanti anni, sai benissimo che il Presidente della Repubblica viene scelto negli ultimi 10 minuti, come tutti. Fare una previsione così lunga a scadenza, come sai, può uscire. Se Berlusconi avesse voluto fare un dispetto a Renzi, avrebbe potuto mettere esperto, se non voleva, Mattarella, che invece poi è stata una scelta felice, come lui, insomma, lui stesso, non so se ha la forza di riconoscerlo, ma insomma, nel silenzio gli avrebbe potuto dire, ecco, benissimo, facciamola fino a chiaro. In quel momento probabilmente Renzi sarebbe rimasto spiazzato, e allora sarebbe stata la Finocchiaro, ma fino a un minuto prima era fuori dai giochi, insomma, no? Quindi è estremamente difficile. Diciamo, io mi sono spinto fino chi a immaginare che Maria Elena Boschi studia da Presidente del Consiglio, ma studia non significa affatto che un giorno lo diventi, perché le variabili e i tempi sono talmente imponderabili che magari non succederà mai, insomma, no? Vabbè, intanto quindi studieremo Donne d'Italia, il libro di Bruno Vespa pubblicato da Mondadori. Grazie, buona domenica Bruno. Grazie Vespa te, Maria, e noi torniamo tra pochissimo. Ciao, ciao. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, ed è il momento della nostra Sunday Girl. E benvenuta, buona domenica, Mirta Merlino, giornalista, conduttrice dell'Area che tira sulla 7, titolare di un blog su Huffington Post, mamma di 3 fantastici ragazzi, 2 maschi e una ragazza, e autrice, libro è in libreria da pochi giorni, di Madri, pubblicato da Rizzoli. Allora, a proposito di madri e a proposito di pubblicità, di comunicazione, il tema di questa domenica Nessuna è perfetta, negli spot di solito o sono delle ragazze, quindi sotto una certa età, oppure se c'è una persona, una donna sui 30 anni o oltre, è una mamma, o è una mamma, è una nonna che sforna lasagne, che prova sughi strepitosi, che lucida i lavandini, ma non è una narrazione antica quella che in Italia la pubblicità continua a proporre sulle donne? Beh, prima, fammi dire una cosa, che sono molto contenta di essere la tua Sunday Girl, mi piace molto questo titolo. Anche di Sunday Girl, me lo metto nel curriculum adesso, Sunday Girl. Allora, no, certamente sì, c'è cioè uno stereotipo che non ma banalmente perché facciamo mille e più cose, cioè va benissimo, facciamo le mamme, facciamo le torte talvolta, io sono negata, ma ci sono tante bravissime invece mamme che le fanno, rimane il punto che siamo molti altri di ruoli, quindi l'idea di intrappolarci in un solo ruolo non solo è ingeneroso verso di noi e verso tutto quello che facciamo, ma è obsoleto. Cioè, non è vero. Non è vero, non è vero. La Giulia Buongiorno nel suo libro sulle donne scrive che ormai siamo delle carrieringhe, è un termine che mi è molto piaciuto, cioè donne in carriera e casalinghe. E casalinghe. E ben contenta. Io mi sento molto carrieringa. Ben contente di essere tutte e due. Il problema è che però spesso siamo pressate dall'esigenza, dall'aspirazione a essere perfette e dunque col maledetto multitasking che ci propone di essere cinque cose e cinque cose perfette tutte e cinque, non ci vogliamo bene su questo, ma nessuna è perfetta, conduce una battaglia contro l'eccesso di multitasking. Senti, non parliamo solo di mamme in pubblicità, parliamo anche di madri nel tuo libro, perché sono 11 figure di donne, di storie di mamme tra eroismo e rassegnazione. Guarda che sono convinta che di mamme eroiche ce ne siano molto più di quanto non si pensi, e c'è dell'eroismo a essere mamma di teenager oggi. Sono convinta anch'io, insomma l'eroismo quotidiano ce l'abbiamo un po' tutte, cioè io che ho tre figli, ho sempre lavorato, sinceramente mi sento una funambola. Questa settimana mio figlio si è operato, io ho fatto la spola tra il lavoro e la clinica, praticamente non mi ricordo più se ho dormito o mangiato negli ultimi 4 giorni, però lo facciamo tutte. Ecco, la cosa che io trovo molto interessante del ragionamento che tu facevi sulla perfezione, che è esattamente uno dei punti che ho scritto questo libro, cioè la mia idea è che dobbiamo fare i conti con le nostre imperfezioni, con le nostre fragilità, con le nostre paure, accettarle e dunque incontrare altre donne, altre storie, in alcuni dei casi del mio libro anche storie straordinarie, le donne che hanno adottato un bambino malato con cuore fuori posto, ha deciso di caricarsi questo dolore enorme che nessuno voleva, piuttosto che Cecilia che hanno ucciso un figlio in Messico, ha cominciato una battaglia contro lo Stato messicano. Qual è secondo me il vero punto? È che ci fa un po' ridimensionare le nostre ansie da prestazione, le nostre paure, le nostre fragilità, i nostri errori, ne facciamo tanti errori, ma è sacrosanto e normale che sia così. Io parto nel libro con una frase di Bill Churchill che dice: "There is no way to be a perfect mother, but a million ways to be a good one." Non c'è un modo per essere una madre perfetta, ma un milione di modi per essere una buona madre. Un punto di partenza, ma anche un punto di arrivo, perché se ci si arriva a questa consapevolezza si vive tutte meglio. Senti Mirta, tu hai cominciato come giornalista economica e qui torniamo a quello che è la chiave di tutto, secondo me. Nella parità di genere, nella parità di carriere tra uomini e donne, nella tua percezione, tu hai un osservatorio privilegiato come tutti quelli che fanno TV e incontrano tante persone nelle loro trasmissioni. Percepisci un maggior rispetto nei confronti delle donne, se non altro perché sono spesso loro oggi quelle che non che portano i pantaloni, ma che guadagnano, ma talvolta guadagnano anche di più dei loro mariti. C'è un cambiamento in questo senso, in chiave economica, sì, della figura femminile? Sì, il cambiamento c'è, cioè le donne in ruoli apicali ormai ci sono, le donne ministro, le donne capo azienda, le donne presidenti, e anche nel nostro piccolo, noi giornaliste, io penso che insomma siamo... cioè nel mondo giornalismo le donne hanno ricoperto ruoli importanti e continuano a farlo, quindi il tema si pone. Secondo me c'è un problema però che ha a che fare con due temi. Uno è il tema economico in senso lato, cioè le donne che lavorano in Italia sono meno di quanto potrebbero essere, e questa cosa invece di portarle ad essere più madri le porta a essere meno madri. Questo è un temone gigantesco, perché non stiamo a casa per fare figli, stiamo a casa perché abbiamo difficoltà enorme ad entrare nel mondo del lavoro, e finché non ci entriamo abbiamo anche paura di fare figli, e questo diventa un problema. È un circolo vizioso per cui l'Italia ha la demografia che ha. Esattamente. E le pensioni non saranno pagate. Brava, esattamente, cioè, sai che se arrivassimo al 70% di occupazione femminile come si dice l'agenda di Lisbona, l'Italia avrebbe 7 punti di PIL in più, non 0, su cui ci impicchiamo in questi giorni, 7 punti di PIL in più, quindi parliamo di una cosa grande, importante, strategica. L'altro tema secondo me è quello di che prezzo paghiamo noi, Maria, per essere donne rispettate, autorevoli, che lavorano, che fanno i figli, che fanno le madri, che fanno le mogli, e che provano anche a fare per esempio le donne, cioè essere belle, essere curate. Cioè, la verità, come dicevi tu prima, è che questa è un'attività frenetica in cui devi sempre dimostrare qualcosa in più, sei sempre un po' lacerata, perché io immagino che anche tu con tua figlia prendi la stessa sensazione, ma io per anni, se io tornavo a casa prima, mi sentivo in difetto con i miei colleghi di lavoro, non mi sentivo alla loro altezza. Quando poi invece andavo a lavorare, nonostante mia figlia avesse la febbre a 40, mi sentivo una madre pessima. Queste lacerazioni, è giustissimo e normale avercele, io troverei disumano non averle, ma sarebbe bello condividerle con i padri dei figli, perché se sei da sola a farti carico di tutto questo diventa davvero come scalare una montagna ripidissima, ed è per questo che noi ci battiamo per demolire il multitasking. Il multitasking va condiviso, fare... Certo, cioè, perché ci laceriamo solo noi? Quanto mai senti un padre dire oddio, mio figlio sta poco bene, l'ho lasciato a casa, sto malissimo? Loro escono al mattino quasi tutti, poi sono delle meravigliose e beate eccezioni, ma quasi tutti escono al mattino. Siamo noi a dover scegliere continuamente questa scelta che si ripropone giorno dopo giorno. Ed è per questo è importante, no? Anche come vengono comunicati negli spot pubblicitari i modelli maschili e femminili, non credi? Assolutamente sì, cioè la verità è che dobbiamo capire che le donne sono qualcosa di complessissimo e restituirgli questa complessità anche nei ruoli, nelle funzioni, in quello che fanno. Le donne fanno tutto il contrario di tutto, perché dobbiamo sempre rinchiuderle in un unico stereotipo, che poi parli delle mamme giustamente, ma se non fanno le mamme spesso e volentieri fanno delle ragazze discinte, super sexy, cioè esiste molto altro, no? Oltre a essere una bella ragazza, essere una madre, in mezzo ci sono infinite sfumature. E poi secondo me c'è il punto di dirci tra noi donne che fare i figli non è un ingombro, perché a me è cosa che mi preoccupa un po', perché poi questo libro ci tengo tanto, sono tanto ragionato, mi preoccupa l'idea che mentre un tempo era la madre che uccideva la donna, no? Le nostre nonne diventavano madri e quella roba lì finiva automaticamente il resto della vita. In questo nostro momento storico invece sono spesso volentieri le donne che uccidono le madri, cioè per rimanere donna fino in fondo, per fare carriera, per avere una bella professione, per rimanere bella, per essere in palla, rinunci a una dimensione che è fondamentale. Devi mandarla dopo i 40 anni. Io infatti parto da me nel libro per raccontare quando sono rimasta io incinta a 26 anni di due gemelli, mi è sembrato un incubo, perché poi bisogna essere sinceri, non è stato un sogno, è stato Dio che mi succederà, che fine faranno le mie ambizioni, che fine faranno i miei progetti. Ed è bene invece raccontare che poi si può fare tutto, si può lavorare ed essere mamma, ma attenzione, tutto dipende anche dalla rete di sostegno, dalla rete familiare. È un discorso che nel libro di Mirta Merlino, che vi invito a leggere, si sviluppa attraverso le storie di queste 11 donne. Noi ringraziamo Mirta, buona domenica a lei. Grazie e a voi. Noi ci fermiamo per qualche secondo. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. E dopo la Sunday Girl è il momento della domanda della settimana. E vi ricordo che potete mandarci i vostri quesiti, i vostri dubbi professionali scrivendo a Nessuna è perfetta @radio24.it o scrivere su Twitter usando l'hashtag Nessuna è perfetta. C'è anche la nostra pagina Facebook, naturalmente. Dunque, cosa scrive la nostra ascoltatrice questa domenica? Lavoro in un'agenzia pubblicitaria. Non sono una ragazzina, ho 42 anni e ho un ruolo creativo. La campagna su cui stiamo lavorando si rivolge a un target maschile. Il prodotto è chiaramente destinato agli uomini. L'idea è quella di usare una donna naturalmente giovane, naturalmente provocante. Sempre la stessa ricetta. Poca creatività, poco coraggio, direi che stiamo sull'usato sicuro. In altri paesi le campagne pubblicitarie non sono così banali e io anche questa volta l'ho fatto presente ai miei colleghi. Mi hanno dato della bacchettona e mi hanno ricordato che è il cliente, quello che investe i soldi per la campagna, a volere questo spot. Io però resto convinta della mia posizione e stavolta vado allo scontro. Sono ingenua? Camilla. Gli esperti di questa settimana: Massimo Costa, country manager di WPP Italia, la maggiore holding di comunicazione globale. Buona domenica. Buongiorno a voi. Chiara Mio, professore ordinario presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e presidente del Comitato di Sostenibilità del Gruppo Benetton, un organismo che è stato istituito appunto da Benetton per affrontare in generale i temi della sostenibilità. La prima domanda è per tutti e due. Camilla è ingenua? Chiara Mio. Buongiorno. Secondo me Camilla non è ingenua, però fotografa una piccola parte di quello che è il pubblico e di quella che è oggi la maturità e la situazione della comunità. C'è invece grande parte della cittadinanza, non solo del mondo delle imprese, che invece addirittura penalizza chi fa un uso ostentato ed eccessivo del corpo femminile e addirittura che mette i bambini o le donne per vendere i prodotti. E quindi direi che le aziende, ma in particolare i consumatori, dovrebbero porre attenzione alla opportunità di invece differenziarsi, perché molto spesso i consumatori sono infastiditi dall'ostentazione del corpo e c'è un filone molto importante che sta emergendo in questo senso. Massimo Costa, la pubblicità italiana è quella che resiste con più difficoltà all'idea di proporre modelli femminili diversi? Ma se mi posso permettere, anche forte un'esperienza internazionale, credo che la pubblicità in realtà sia in qualche modo anche rappresentativa del paese. E in questo senso non sto facendo un complimento al paese. La pubblicità italiana è innanzitutto una pubblicità che è fatta in un paese diciamo più vecchio degli altri paesi europei, quindi con dei malcostumi che fanno più fatica a morire. Sicuramente, non sta a me dirlo, non sono un sociologo, il ruolo della donna cioè italiana è sicuramente cambiato, è migliorato tantissimo, ma non credo sia ancora paragonabile ai paesi scandinavi o anglosassoni. In ultima istanza devo dire che non è un problema solo della pubblicità, ma dei media in generale e di quello che è il prodotto culturale che televisione e stampa propongono ai cittadini e che i cittadini fumano. Quindi c'è una sorta corresponsabilità, secondo me. C'è una corresponsabilità, però l'ultima parola, no, ce le hanno le aziende, perché sono le aziende che a un certo punto impongono, non era così forse 20 anni fa, ma adesso temo sia così, impongono una linea alle... La devo contraddire. Le multinazionali, in particolar modo americane o inglesi come la mia, fanno firmare ai propri manager chili di documenti relativi all'atteggiamento deontologico. Questo vuol dire che noi abbiamo in essere, in tutte le nostre aziende, ma anche i nostri concorrenti, dei numeri verdi a cui tutto il personale si può rivolgere in qualsiasi momento, in qualsiasi parte del mondo, per lamentarsi di atteggiamenti inadeguati a sfondo sessuale, razziale, religioso, o che possono essere denigratori in qualsiasi modo. Quindi la prima cosa che elenco o scopro da questa lettera è che la signora in questione non lavora in una multinazionale. Questa è una cosa gravissima, la signora dovrebbe avere la possibilità tramite il sito web della sua società di chiamare il numero anonimo peraltro per questa lamentela e prendere quelle che sono le difese del dipendente. Se questo non è avvenuto, perché forse lavora in un'azienda italiana. È probabile. Senta, Chiara Mio, La verità, come dice Massimo Costa, è che la pubblicità, la comunicazione, la narrazione delle donne rispecchia quello che è il paese. Credo che possiamo essere d'accordo. Andando fuori dall'Italia, invece, Benetton sta facendo una comunicazione avendo come riferimento le donne di paesi meno fortunati di quanto non sia l'Occidente. Sì, su questo secondo me è interessante, concordo con l'analisi che veniva fatta sulla dicotomia multinazionali e Italia. Poi abbiamo anche delle splendide aziende italiane che portano alta la bandiera dell'Italia a livello mondo, Benetton una di queste, ce n'è altre. Benetton, fra tutti gli impegni che poteva prendere a livello sociale, sceglie le donne. Secondo me questo è un dato che va sottolineato. Decide di investire 2 milioni di euro per un programma di Women Empowerment e con l'idea di dar conto che ci sono dei numeri drammatici, cioè 250 milioni di donne che sono state costrette a sposarsi con un partner deciso dalla famiglia. Queste sono cose che accadono oggi, solo per citare un dato, donne che muoiono ancora per non avere accesso alla sanità. Benetton propone un programma attraverso tutta una serie di iniziative, mettendo del denaro ma cercando una partnership con i paesi dove ci sono le produzioni maggiori della filiera del tessile, che dà occupazione prevalentemente femminile, e cercando di sviluppare un programma che dia alle donne non solo stipendio, salario dignitoso, ma anche condizioni di vita, che significa per esempio trasporti sicuri. Molte donne vengono ammazzate o vengono violentate fra la casa e il luogo di lavoro, che dia condizioni alla sanità sicure. Non basta dare i soldi, bisogna anche dare l'accesso al medico, quindi portando il medico in fabbrica se serve, dando istruzione di qualità e lavorando sui filoni della lotta contro la violenza sulle donne. A me sembra un bel segnale, perché fra tutti i temi che si potevano scegliere, agire in maniera così convinta sulle donne fa ben sperare. Ecco, questo con un occhio rivolto ai paesi dell'Estremo Oriente o all'Africa. Per tornare invece a casa nostra, Massimo Costa, quando la nostra ascoltatrice Camilla nella lettera fa presente che è il cliente che spinge per un'immagine di spot con la solita ragazza provocante perché è convinto che così quel prodotto si venderà a scatola chiusa, racconta spesso una realtà. Quante volte, no, in pubblicità c'è il braccio di ferro tra il cliente che vuole una cosa vecchia e magari il pubblicitario che vorrebbe tentare vie nuove? Certo, però sono due cose diverse, perché un conto è avere un atteggiamento disruptive e quindi fare una comunicazione che sia più moderna, magari su mezzi diversi da quelli classici, con canoni e valori diversi. Un conto invece avere un cliente che si ostina su questioni di questo tipo, che trovo da una parte deprecabile, e di contro sono invece delle richieste che un'azienda seria e grande deve poter dire no, noi questo non lo facciamo. Se un'azienda non è in grado di tutelare in termini valoriali il proprio lavoro, ha un problema di fondo ben più grande. Se invece un'azienda è semplicemente un fornitore di servizi, a questo punto, è chiaro che è bella, delicati, però parliamo, è una bella differenza. Chiaramente, parliamo però chiaramente di un'azienda ancora una volta padronale, nel senso, cioè un'azienda che possa avere uno standing di fronte al cliente adeguato. Un'azienda di comunicazione è un partner per il cliente. Conseguentemente, se l'atteggiamento del cliente è questo, vuol dire che non sia partner, sia fornitori. Ed è molto diverso. Certo, ed è molto diverso. In conclusione, se dovessimo dare un consiglio alla nostra Camilla, qui torno da Chiara Mio e poi da Massimo Costa, oltre a rivolgersi, come suggeriva Costa, a rivolgersi a un'associazione di categoria che la tuteli, nella concretezza del momento, cosa le conviene fare? Far presente il suo punto di vista con forza e quindi eventualmente rischiare di essere messa fuori da questa campagna pubblicitaria? O, siccome i tempi sono quelli che sono, come dire, abbozzare, come si dice a Roma. Ma io credo che Camilla, se già si è posta il tema, non è una che molla facilmente, quindi io direi che insiste, che proponga al suo interlocutore una campagna disruptive, cioè innovativa, e che dimostri all'interlocutore, al cliente, che si può vendere anche essendo seri e proponendo dei valori. Quindi, siccome l'obiettivo del suo committente è vendere, sostenere l'immagine, far capire con una proposta avvincente che non serve scoprire centimetri di corpo, usare il corpo della donna in quel modo per raggiungere un'immagine, e far presente all'interlocutore che la reputazione deve durare nel tempo per un'azienda, che quindi forse puntare su delle cose per cui anche la percezione in Italia sta cambiando forse non è vincente nel lungo periodo. Nel lungo periodo sicuramente no. Massimo Costa, in WPP, se una ha un problema, avesse un problema di questo tipo, come se la cava? Chiama la linea diretta a Londra, New York, fa presente quello che è il suo problema e il manager responsabile dell'azienda viene richiamato immediatamente all'ordine. Punto, senza quindi perdere troppo tempo. No, noi le posso dire, non in Italia, ho avuto dei casi in Europa dell'Est di questo tipo con il direttore generale dell'agenzia licenziato. Ah. Ecco, cara Camilla, guarda a questo come segno, diciamo, di cambiamento e di innovazione, e non mollare. Io ringrazio moltissimo Massimo Costa, Country Manager di WPP Italia, ringrazio Chiara Mio, professore all'Università Ca' Foscari. Noi ci fermiamo qui qualche secondo e vi ricordo che potete sempre scrivere a nessunoeperfetta@radio24.it. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Abbiamo ascoltato i consigli degli esperti alla nostra pubblicitaria, un po' in crisi con la comunicazione che è sempre ripetitiva, è sempre la stessa. Ma è il momento della nostra coach, di Maria Serena Ciambellotti di Lares Consulting. Buona domenica, bentornata a Nessuna è perfetta. Dunque, l'obiettivo della campagna sulla quale sta lavorando Camilla entra in conflitto con quello che vuole il cliente. Il cliente, voi lo sapete, nelle campagne pubblicitarie ha spesso l'ultima parola. Come deve gestire questa delicatissima questione professionale? Perché certo l'agenzia tiene molto al cliente, sappiamo di questi tempi quanto un contratto sia importante, no? E d'altra parte però lei non sente di poter aderire a questa immagine stereotipata della donna sessualmente disponibile. Che deve fare Camilla? Allora, Camilla si trova proprio nella tipica situazione, no, di conflitto, diciamo così, valoriale, e quindi vive un dilemma, un vero e proprio dilemma tra la sua capacità in quanto professionista del settore pubblicitario di aderire a quelli che sono gli input del cliente, guidato sicuramente dall'agenzia, e che ha ben chiara in mente una sua strategia rispetto al target che spesso acquista in modo emozionale, quindi sa benissimo, no, che potrebbe essere catturato con l'ammiccamento di una figura femminile seduttiva, e un suo valore che probabilmente sente forte, ed è quello proprio di voler esprimere sì la sua femminilità, di cui l'aspetto seduttivo non è che una parte, ma in maniera non così sbattuta un po' in prima pagina o così smaccata. Questo conflitto è molto interessante perché guida proprio la persona a una riflessione sul sé, che quindi porta ad un viaggio, ad un allineamento a quelli che sono i suoi valori più, ecco, fondanti. Ma nella, diciamo, passando dalla teoria alla pratica, qui ci sono due cose: o lei dice no, io questa campagna non la faccio, e però è anche possibile che allora l'agenzia la sposti a fare magari delle campagne meno importanti, con clienti meno significativi, non sappiamo che tipo di reazioni si possano dare in queste situazioni, oppure si adegua e però come dire, i problemi interiori si accumulano, diventa difficile, no? Gestire il malumore quando sei costretto a fare qualcosa che proprio non condividi. Quindi che consiglio le daresti? Ma la domanda da porsi in questi casi è proprio a cosa pensi di poter rinunciare, quindi, o a cosa stai rinunciando. Quindi nel momento in cui scegliesse di allinearsi a quelle che sono le richieste del cliente, che la sua agenzia eventualmente segue, in che modo mi sento quindi una persona meno allineata. E d'altra parte io sono sempre per, come dire, speak out, no? Quindi parlare, esprimere quelle che sono le proprie idee in maniera pacata. Perché no? Fare una proposta alternativa, cioè, quindi qui ci sono due opzioni, la A e la B. Io da coach chiederei: e qual è la terza? Quindi non mettiamo limiti, cioè lasciamo che ci siano possibilità alternative, perché non essere noi i motori, no? Per poter esplorare nuove possibilità con le nostre idee originali, creative. E comunque il punto vero è che finché Camilla sarà sola a pensarla, finché non ci saranno anche dall'altra parte, dalla parte del cliente, delle persone che condivideranno il suo punto di vista, non necessariamente delle donne, perché conosco molti uomini che sono stanchi di vedere questo tipo di pubblicità. Ecco, finché la battaglia la fai da sola, le possibilità di vincerla sono poche. Ed è anche per questo che ne parliamo qui oggi, per far sentire meno sola Camilla e tutte le pubblicitarie che in Italia e altrove sono stufe di riproporre la stessa identica situazione vista negli ultimi 30 anni migliaia di volte. Grazie a Maria Serena Ciambellotti, la nostra coach, che è stata con noi anche questa domenica. Grazie a voi, e segnalateci le pubblicità che vi hanno un po' disturbato o tanto disturbato. Scriveteci a nessunaeperfetta@radio24.it o anche su Twitter usando l'hashtag nessunaeperfetta. Buona domenica a voi che ci avete seguito, e ricordatevelo: il multitasking è una fregatura.